il gigante, la bambina, sotto il sole, contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Il gigante è un giardiniere, la bambina è come un fiore che gli stringe forte al cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. Gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. Del gigante la bambina si è saputo nel villaggio, e la rabbia dà il coraggio di salire fino al bosco, di salire fino al bosco, di salire fino al bosco. Il gigante e la bambina li han trovati addormentati, falco e passero abbracciati, come figli del Signore, come figli del Signore, come figli del Signore. Il gigante adesso è in piedi con la sua spada d'amore, piangendo taglia il fiore prima che sia calpestato, prima che sia calpestato, prima che sia calpestato. Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina.